senza morti ci sia solo il paradiso, arrivare da San Pietro e conquistare col sorriso. Me ne voglio andare e allora torno da San Pietro e gli domando che posto è. Io ti mando al purgatorio ma ti dico non va per te. Ultima spiaggia c'è l'inferno dove regna solo il caldo, si lavora e si fatica, c'è da stare sempre in riga. Tutto il giorno incatenato, non verrà neanche appagato, pensa al fuoco e al calore, troverai solo dolore. Sarà come